ad alta voce. Elisabetta Piccolomini legge Akutagawa Ryunosuke. La principessa di Roku no Miya. Il padre della principessa di Roku no Miya era uno della famiglia imperiale, ma essendo un tradizionalista riusciva difficilmente ad adeguarsi ai tempi e non fece una grande carriera. La principessa sua figlia viveva con i genitori in un palazzo dal tetto imponente, alla periferia di Roku no Miya, ed era conosciuta con il nome della località. Sebbene il padre e la madre la amassero profondamente, a causa della loro mentalità antiquata non cercavano di farle incontrare qualcuno, ma piuttosto speravano che qualcuno si facesse avanti per corteggiarla. La principessa, dando ascolto alle parole dei genitori, passava le giornate nel più completo riserbo. Questo non le dava preoccupazione, ma nello stesso tempo le impediva la gioia. Tuttavia, essendo sempre tenuta in casa, accettava la sua sorte così, com'era, solo con questo pensiero, purché i miei genitori mi stiano sempre vicini. Con i rami inclinati verso un vecchio laghetto, un ciliegio fioriva a malapena di anno in anno, mentre la principessa acquistava una bellezza matura e malinconica. Ma un giorno all'improvviso il padre, che era il suo sostegno, morì a causa di eccesso di alcol. 6 mesi più tardi morì anche la madre, dopo essersi addolorata tanto per la morte di suo marito. La principessa, vissuta nella bambagia fino a quel momento, più che mettersi a piangere, si trovò davvero perduta, perché ormai non le restava nessuno altro che la balia. La balia, senza risparmiarsi, si dedicava come prima alla sua padrona. A poco sparivano dal palazzo ora un cufanetto di madreperla antico, ora un incensiere d'argento, anche i servi, uno alla volta, si congedarono. La principessa, pur cominciando a rendersi conto della difficile situazione economica, non sapeva come porvi rimedio e continuava a passare le giornate suonando il koto e recitando poesie. Un giorno d'autunno, verso il tramonto, la balia le si presentò e si mise a parlare con atteggiamento pensieroso. «Mio nipote Bonzo mi ha riferito che un signore, ex governatore di Tamba, gli ha chiesto di potersi presentare a voi. Mi ha detto che questo signore ha un aspetto piacevole e ha cuore gentile. Suo padre, anch'egli governatore di alto rango, è figlio di un nobile, perciò penso che potreste incontrarlo, piuttosto che sopportare questa vita così incerta». La principessa cominciò a piangere. Mettersi nelle mani di quel signore significava vendere il corpo per rimediare la difficile situazione economica. Davanti alla balia restò a lungo immobile, con il viso nascosto dietro l'ampia manica del kimono, mentre il vento scuoteva le foglie di una maranta. La principessa riceveva tutte le sere quel signore. Egli aveva effettivamente cuore gentile e aspetto nobile, Appariva evidente agli occhi di chiunque che era incantato dalla bellezza di lei, che a sua volta provava simpatia verso di lui e qualche volta lo considerava anche nel suo essere un uomo. Tuttavia, quando facevano l'amore sotto il lume dietro il paravento dipinto con farfalle e uccelli, non provava nessuna gioia. Al palazzo era tornata un'atmosfera gaia, i mobili e le stuoie erano stati rinnovati e il numero della servitù aumentato. La balia si dedicava più di prima alla principessa che, però, guardava quel cambiamento con tristezza. Una sera di pioggia, il suo uomo, mentre beveva sakè in sua compagnia, si mise a raccontare una strana storia accaduta in Tamba. Un forestiero pernottò in una locanda dove quella sera la padrona felicemente partorì una bambina. A un certo punto vide un misterioso gigante che usciva in fretta dalla stanza della partoriente dicendo «all'età di 8 anni per suicidio» e immediatamente scomparve. 9 anni dopo il forestiero pernottò nella stessa locanda. Per strana coincidenza, la bambina era morta all'età di 8 anni. Misteriosamente, cadendo da un albero, era finita su una falce che le aveva squarciato la gola. Quando la principessa lo ascoltò, tremò per quel terribile destino e nello stesso tempo si considerò fortunata rispetto a quella bambina. Nessuno può cambiare il destino, pensava lei tristemente, pur conservando uno splendido sorriso. Un pino che toccava il tetto perse varie volte i rami, spezzati sotto il peso della neve. La principessa di giorno suonava il cotto e giocava a dadi e di notte nel letto, insieme all'uomo, prestava attenzione al fruscio degli uccelli che scendevano sul laghetto. Le sue giornate non erano tristi, ma nemmeno tanto gioiose. Provava una piccola felicità per quella serenità languida che tuttavia, inaspettatamente, si concluse presto. Una sera, all'inizio della primavera, l'uomo imbarazzato disse «Stasera è l'ultima volta che ti vedo». Suo padre era stato trasferito nella provincia di Mutsu ed egli doveva seguirlo. Sebbene per lui fosse un vero dolore separarsi da lei, poiché l'aveva sposata di nascosto, non poteva rivelarlo ora a suo padre. Dopo averle spiegato a lungo la propria situazione, sospirò: «Ma tra 5 anni sarà terminato l'incarico. Aspettami e pensa a quel giorno meraviglioso». La principessa piangeva. Anche se non provava grande amore, separarsi dall'uomo che era il suo sostegno la faceva disperare profondamente. Egli cercò di consolarla e rincuorarla con mille parole, accarezzandole la schiena mentre anche la sua voce assumeva un tono grave a causa delle lacrime. A un certo punto la balia, ignara di tutto, si presentò con alcune giovani cameriere e si mise a preparare la tavola per il sakè, annunciando che sul ciliegio in riva al laghetto erano spuntati dei boccioli. Venne per 6 volte la primavera, ma il suo uomo non tornò. Ormai tutta la servitù era andata via, e dopo che un tifone aveva battuto l'ala orientale, la principessa viveva sola con la balia in una parte del palazzo un tempo riservata ai samurai. Era piuttosto stretta questa parte e malandata, tanto che a stento poteva ripararle dalla pioggia e dalla rugiada. La vita per le due donne era davvero tragica. I mobili si erano trasformati da tempo in riso e verdura. Di tutto il vestiario della principessa era rimasto solo l'abito che aveva indosso. Quando mancava legna da ardere, la balia andava a strappare qualche infisso al palazzo abbandonato. Mentre la sua padrona aspettava con ostinazione il suo uomo, distraendosi con il cotto e con la poesia. Una sera di quell'autunno la balia le si presentò e parlò nuovamente, pensierosa. «Il signore non tornerà più», Non potreste dimenticarlo. Il vice direttore della direzione medica del Ministero della Casa Imperiale mi chiede insistentemente di potersi presentare a voi. La principessa ascoltava e ricordava quel giorno di 6 anni prima in cui si era disperata tanto e aveva pianto a lungo, ma ora era troppo stanca per ripetere quel gesto e pensava: vorrei solo invecchiare e morire in pace. Quando finì di ascoltarla, fissò lo sguardo alla luna bianca e accennò 2 o 3 volte no, no, no, muovendo il viso sciupato. Non mi interessa più nulla. Vivere, morire, sono la stessa cosa. In quello stesso momento, il suo uomo, in un palazzo in Itachi, beveva sakè in compagnia della sua nuova moglie, per sposare la quale il padre gli aveva dato il consenso. «Che cos'è quel rumore?» disse lui come se fosse spaventato, alzando lo sguardo verso il cornicione dove, nel silenzio, stagnava il chiarore della luna. Gli tornò in mente la principessa. «Forse è caduto un riccio di castagna», rispose la nuova moglie servendogli il sakè con maniere rozze. L'uomo tornò, 9 anni dopo, alla fine dell'autunno. Dalla terra lontana 2 o 3 volte aveva mandato lettere d'amore alla moglie lasciata nella capitale, ma non aveva mai ricevuto risposta perché il messo o non aveva fatto ritorno o non aveva trovato il suo palazzo. Così, una volta che mise piede nella città, fu colto da una grande nostalgia e si precipitò a Rokunomiya senza nemmeno disfare le valigie. A Rokunomiya non trovò né lo stupendo cancello né il palazzo con il tetto di corteccia d'albero. Ad un tratto però si accorse di un tetto di legno tutto cadente su quello che era stato il locale dell'amministrazione del palazzo. Si accostò a una cattapecchia dentro la quale muoveva un'ombra e a questa rivolse sottovoce la parola attraverso il buio. A passi incerti uscì fuori, illuminata dal chiaro di luna, un'anziana monaca che non gli era affatto sconosciuta. Quando ella seppe il nome dell'uomo, si mise sommessamente a piangere senza dire nulla. Poi cominciò a raccontare: forse non vi ricordate, ma sono la madre di una serva che prestava servizio nel palazzo. Mia figlia rimase ancora per 5 anni dopo che siete partito. Poi dovette lasciare la capitale insieme a suo marito. In quell'occasione partì con mia figlia, ma di recente, siccome sono stata presa dall'ansia per la principessa, sono tornata qui da sola e ho trovato tutto in questo stato. Dove sarà la principessa? A dir la verità sono proprio disperata. Forse non l'avete mai saputo, ma anche quando mia figlia prestava servizio qui, il tono della vita della principessa era già cambiato in maniera indescrivibile. L'uomo, dopo aver ascoltato, si tolse uno dei kimono che aveva indosso e lo diede alla monaca. Poi, abbassando il capo, se ne andò in silenzio, in mezzo all'erba. Sebbene il giorno dopo l'uomo iniziasse la ricerca della principessa in tutta la capitale, non la trovò più. Alcuni giorni più tardi, verso il tramonto, per ripararsi da un acquazzone si rifugiò sotto il tetto di una costruzione in rovina che si trovava di fronte alla porta Suzaku, verso occidente, dove già si era riparato un bonzo mendicante. Mentre la pioggia, col suo scroscio malinconico, cadeva incessantemente sulla porta laccata, egli andava su e giù, irritato, per il lastricato, osservando il bonzo con la coda dell'occhio. A un tratto, al di là di una finestra congrata, sentì la presenza di qualcuno. Quasi istintivamente guardò dentro. Vide che una monaca con una stuoia addosso assisteva una donna che pareva molto ammalata e magra da far paura anche nella scarsa luce del tramonto. Bastò un'occhiata per riconoscerla. Stava per dire qualcosa, ma vedendola in uno stato tanto umiliante, la voce gli rimase in gola. La principessa ignara si girò sulla stuoia rotta e si mise a recitare dolorosamente questi versi. Sentivo freddo un tempo dagli spifferi, ma ora mi ci sono abituata. Quando l'uomo sentì la voce, sussurrò il nome della principessa. Questa alzò il capo, appena lo riconobbe, cadde sulla stuoia, dopo aver sussurrato lei pure qualche parola. La monaca, sua fedele balia, si precipitò verso di lei insieme all'uomo. Quando, sollevandola, le videro il viso, si sentirono ancora più smarriti. La balia corse dal bonzo mendicante come impazzita e gli chiese di recitare la scrittura per la principessa che era sul punto di morire. Il bonzo sedette al capezzale della malata, ma invece di recitare qualche versetto della sacra scrittura le rivolse queste parole. Nessuno ha potere di decidere della vita e della morte. Dovete soltanto invocare voi stessa il nome di Amitabha con tutta la devozione. La principessa tra le braccia dell'uomo si mise a recitare il nome della divinità, ma un tratto, guardando il soffitto, esclamò spaurita: «Ah, c'è una carrozza in fiamme!» «Non abbiate paura, invocate, invocate il nome della divinità», disse il bonzo insistentemente. Poco dopo ella nuovamente si mise a bisbigliare, come stesse sognando. «Vedo i fiori di loto dorati e grandi, simili a un tengai». Il bonzo stava per dire qualcosa, ma la principessa continuò: «I fiori di loto non si vedono più, è rimasto solo il vento che soffia nel buio». «Invocate, su, invocate il nome della divinità, perché non volete farlo?» disse lui quasi rimproverandola. Tuttavia ella ripeteva la stessa cosa con un filo di voce: «Nulla, non vedo nulla, soltanto il vento nel buio, il vento gelido soffia». L'uomo e la balia, ingoiando lacrime e parole, invocavano con profonda devozione Amitabha. Naturalmente anche il bonzo, con le mani giunte, aiutava la principessa, posata sulla stuoia rotta, a pregare, mentre il viso di lei, a poco, si trasformava in quello di una morta, tra le voci degli astanti e lo scroscio della pioggia. Alcuni giorni più tardi, una sera di luna, il bonzo si trovava nuovamente sotto quella costruzione in rovina di fronte alla porta Suzaku. A un tratto vide un samurai che, cantando serenamente, veniva verso lui lungo la via illuminata dalla luna. Questi, quando fu vicino al bonzo, fermò i piedi, che calzavano un paio di ciabatte, e gli chiese con disinvoltura: «Ho sentito dire che in queste sere si sente un pianto di donna intorno alla porta Suzaku. È vero?» Il bonzo, accovacciato sull'astricato, disse: «Ascoltate». Il samurai tese gli orecchi. Tranne il ronzio di qualche insetto non sentì nulla. Intorno a lui, nel buio, stagnava l'odore dei pini. Quando stava per dire qualcosa, però, da qualche parte arrivò ai suoi orecchi la voce di una donna, sottile, lamentosa. Di scatto portò la mano all'impugnatura della spada, ma la voce, dopo essere echeggiata per un attimo nel cielo che sovrastava la costruzione, scomparve. Invocate il nome della divinità per lei, disse il bonzo, alzando il viso alla luna. La povera anima della donna che ancora non è entrata né nel paradiso né nell'inferno. Invocate il nome della divinità per lei. Il samurai, senza rispondergli, osservò il viso del bonzo, immediatamente si accasciò davanti a lui con le mani per terra e chiese: «Siete il venerabile Naiki. E come mai vi trovate in questo luogo?» Elisabetta Piccolomini ha letto Akutagawa Ryunosuke, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it.